Finite le celebrazioni per il risultato del vertice europeo, ieri si è registrata qualche tensione proprio su questo tema. Chi gestirà i fondi? La cabina di regia sarà a Palazzo Chigi o al Ministero dell'Economia? Il confronto nel governo, qualcuno lo chiama braccio di ferro, è aperto, così come resta aperto quello sull'utilizzo del fondo salva stati, l'innominabile MES. Nodi da sciogliere a breve, mentre l'attenzione si concentra su una storia di cronaca, quella della caserma dei carabinieri di Piacenza, da dove, stando all'inchiesta che ieri ha portato agli arresti di 6 militari, veniva gestito un traffico di droga e nella quale avvenivano regolarmente pestaggi e abusi sugli arrestati. Mentre emergono intercettazioni inquietanti, ci si chiede com'è possibile che nessuno più in alto si fosse accorto di nulla. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Eccoci, care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. È giovedì 23 luglio, sono le 6:31 minuti e 10 secondi e ci siamo con la penultima puntata di questa stagione di 24 Mattino. Ancora domani, poi ci fermiamo per qualche settimana e ritorniamo il 31 di agosto con qualche novità, per le quali vi rimando. Durante il mese di agosto ci sarà un piccolo promo, un minuto che sentirete sparso in mezzo alla programmazione, che vi darà qualche piccolo dettaglio in più. Quindi continuate ad ascoltare Radio 24. Mentre si discute sulla formazione di una cabina di regia, di una task force, una nuova task force, la nostra stamattina è composta da Carmelo Lauricella, che è in regia, tra l'altro, quindi è proprio la cabina di regia. Miriam Lucchetti in assistenza, Giorgio De Luca in redazione, Margherita Ina e Francesco Sarafo, i nostri autori. E voi, volete far parte della cabina di regia? Avete idee per le riforme del paese? Per partecipare agli stati generali di Radio 24 c'è il 349-238-6666, WhatsApp audio, le vostre voci, SMS, WhatsApp scritti, tutto quello che volete. Però questa mattina, invece di iniziare dalla politica, partiamo da altro. Partiamo da quello che è successo a Piacenza, che ha, non so come dirlo, e so che questo aggettivo è abusato, però ha dell'incredibile. Tre anni così, tre anni in una caserma dei carabinieri che, stando al racconto degli inquirenti, poi tutto andrà verificato, però ci sono delle intercettazioni ambientali e telefoniche che a leggerle fanno spavento, nei quali questa caserma era diventata un luogo extraterritoriale vero e proprio, nel quale avveniva di tutto. Un carabiniere che era a capo di questa sorta di organizzazione, anzi, di fatto, secondo i magistrati, una vera e propria organizzazione criminale, uno che in tre anni aveva cambiato 7-8 macchine, che aveva una villa con piscina, con un reddito dichiarato di 31.500 euro. E nulla, come se nessuno si fosse accorto di nulla. Eppure in quella caserma avvenivano cose come, certo, l'audio è sporco e qualche perplessità sul farvelo ascoltare ce l'ho avuta questa mattina, perché è anche duro. Però è quello che succedeva, eh? Datevi così, ci diamo anche un'idea, quando parliamo di pestaggi da parte delle forze dell'ordine, genericamente intesi, tendiamo sempre a avere una cosa figurata, quasi da film, mentre invece le cose, quando succedono, vanno in questo modo. E si sente poco, ma forse lo sentite, questa persona, un pusher evidentemente non al servizio di questa presunta organizzazione, che dice basta, basta, basta, perché secondo i magistrati queste persone gli stavano chiedendo dove aveva nascosto la droga, perché la sarebbero andata a prendere e l'avrebbero rivenduta tramite i loro canali. E bravo l'ascoltatore che chiede già, sì, ma i comandanti qua, quelli che erano in linea diretta, in linea di comando, dove guardavano? Perché questo andrà sicuramente approfondito, ossia, questa volta la tesi, il ragionamento su sono me le marce regge fino a un certo punto, che è la classica risposta che arriva in questi casi. Comunque dice il procuratore capo Pradella, che ha gestito l'indagine, un'indagine che non intacca l'arma dei carabinieri, perché poi sono 100.000 uomini, ricordiamocelo, quindi non è che qua si vuole gettare la croce addosso all'intera arma. Però il procuratore, sentiamo. È un'indagine che non intacca minimamente la fiducia, la stima che la Procura di Piacenza, ma anch'io personalmente durante tutta la mia carriera e così i colleghi abbiamo nei confronti dell'arma. L'arma è una istituzione fondamentale per ogni lavoro della magistratura. Questo sul fronte di questa indagine, ripeto, sarà da approfondire. Veniamo a qualche spunto che arriva dalla politica. Il Presidente del Consiglio Conte ieri è intervenuto in Senato sul tema del fondo del Recovery Fund. Dice abbiamo vinto, la sfida comincia adesso, ma soprattutto dice è una vittoria dell'Italia. Possiamo dirci soddisfatti di un risultato positivo che non appartiene ai singoli. Guardate, non appartiene pure a chi vi parla, al governo, e se mi permettete pure alle forze di maggioranza. È un risultato che appartiene all'Italia intera. Pur con tutta la soddisfazione ovviamente dello stesso Presidente del Consiglio, come si diceva, adesso si apre una fase dialettica, come si dice, su chi e come gestirà questi fondi, con l'ovvio rischio del quale abbiamo più volte parlato nei giorni scorsi con Maria Latella, dell'assalto alla diligenza. Vedremo. Intanto Conte ne esce rafforzato politicamente, non c'è dubbio, almeno a sentire le parole. Oddio, fidarsi fino in fondo visto i precedenti no, però le parole di Matteo Renzi. Lei è stato bravo e noi gliene diamo atto, perché lei ha fatto l'interesse del Paese in un quadro di ideale europeo. Noi la apprezziamo per questo e le diciamo che se questa sarà la strada su cui il Governo dovrà proseguire, saremo sempre più convintamente al fianco suo. Non so se sia un altro stai sereno, non credo questa volta. Anche perché non conviene nemmeno a Renzi, non conviene nemmeno a Italia Viva adesso. Salvini. Questo è il primo caso di un prestito dove però gli dicono, amico mio, i soldi del prestito, che sono peraltro tuoi soldi perché me li hai pagati tu negli anni, li spendi come ti dico io. E diciamocelo, dall'altro lato, qua Salvini un po' manca di argomenti su questo fronte. Ragazzi, se voi prendete un mutuo, non è che i soldi li potete usare per altro che non è l'acquisto della casa. È molto semplice. Hanno un prestito, è vincolato a determinate spese, però se è un prestito conveniente, perché non prenderselo? Poi ovviamente c'è tutto il dibattito sul MES. Tutto in conseguenza, ovviamente, della grande pandemia di Covid-19, sul cui fronte c'è da segnalare ieri, sono da segnalare ieri queste parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che insomma forse sta veramente un po' esagerando, In Italia si aspettavano che in Campania venisse fuori un'ecatombe. Sono rimasti delusi. La Campania è la regione che ha retto meglio di tutte le regioni d'Italia l'epidemia di coronavirus, meglio di tutti. Quando noi chiudevamo in altre parti d'Italia si facevano iniziative pubbliche. Milano non si ferma, Bergamo non si ferma, Brescia non si ferma. Poi si sono fermati a contare le migliaia di morti, non le centinaia, le migliaia di morti. Insomma, un po' troppo. Ieri c'è un dato che ci ha incuriosito, che abbiamo trovato sul Sole 24 Ore, il quale indicava che tra gli alberghi, soprattutto quelli di categoria un filino più bassa, dai 3 stelle in giù, solo il 30% accetta il voucher vacanze, che è questo voucher. Ne sono stati attivati 630.000 al 17 luglio, sono stati stanziati 2,4 miliardi, i voucher già spesi sono 47.000 e sono questi soldi che consentono di scalare un po' di soldi, un po' di quattrini dal soggiorno che si fa. E però la procedura non solo è un po' complessa, secondo alcuni, secondo altri è semplicissima, lo sappiamo, vi siete divisi anche voi, quando ne abbiamo parlato ci avete scritto, alcuni ci hanno detto guarda l'ho attivato, è stato facilissimo, altri hanno detto ci ho passato l'intera giornata. Ma soprattutto rischia, per come è strutturato, di creare qualche problema di liquidità alle aziende. Immagino Patrizia Rinaldis, presidente dell'Associazione Albergatori di Rimini, bentornata da noi, che il motivo per il quale molti non lo accettano sia esattamente questo. Sì, in parte il motivo è questo, anche perché la risposta delle banche dopo 2 mesi dall'uscita del decreto ancora non c'è stata. Attualmente solo una banca probabilmente si rende disponibile al versamento. È anche vero che una volta che è stato chiarito possiamo metterlo in compensazione sui contributi, ho visto che il numero di alberghi che lo accettano, almeno qui da noi, è salito enormemente, anche perché purtroppo moltissime richieste hanno proprio questa richiesta, accettate il bonus vacanza. Sì. Ecco, quindi qualche ascoltatore dice: a me sembra che chi lo accetta abbia alzato le tariffe, cioè sia stato un modo in realtà per rientrare un pochino di questi mesi di crisi. Guardi, oggi come oggi io sto chiedendo all'oste se il vino è buono, in questo caso. però prego Rinaldi. No, il vino è buonissimo. Allora, volevo dire solo una cosa. In realtà il sistema è macchinoso, ed è macchinoso soprattutto per l'utente, cioè quello che deve accedere. Noi passiamo le ore a spiegare come si fa. In molti casi, diciamo, rivolgetevi ai vostri patronati. L'Italia non è tutto uguale. Questo in molti casi ha veramente una funzione sociale. Quando arriviamo a noi, a sua volta, addirittura per andare a cederlo a fornitori, la procedura non è così semplice. Sì. Come sempre in Italia, uno strumento che può avere la sua efficacia poi lo si rende veramente molto complicato. Allora, in questo caso funziona così, mi corregga se sbaglio, sì. Rinaldi, se tu attivi come utente questo voucher vacanze, di cui l'80% lo anticipa l'albergatore, creando un credito che può rivendere ad una banca. Ho capito male? Allora, creando, sì, ha capito perfettamente per quello che riguarda il cliente. Per noi, sì, prego. Quindi l'80%, 500 euro, i 400 le scala dal conto dell'albergo e 100 le scalerà sulla denuncia dei redditi. Sì. Questo 400 euro ad oggi non possiamo darlo, cederlo ancora alle banche, perché nonostante siano passati da 2 mesi e nonostante l'accordo ABI Federalberghi, le banche considerano la norma talmente macchinosa che hanno difficoltà a tradurla. Quindi questo le banche. Sì. Quindi c'è un ostacolo per parte bancaria. Questo che cosa comporta? Normativa. Comporta che voi dobbiate avere un esborso immediato del quale non sapete quando rientrerete. No, non è che, però, diciamo che le cose come stanno. Possiamo cederlo dal giorno dopo o dai contributi dei nostri dipendenti. Fortunatamente alcuni fornitori possiamo cederlo, quindi andrà in pagamento per alcune fatture, possiamo addirittura compensare con le imposte. Quindi siamo stati ultimamente un pochino avvantaggiati, ma molti, non è tanto il problema, prima era il problema della liquidità, ma è anche il problema della gestione di questi bonus vacanza, che in alcuni casi veramente rende difficile ore con il cliente, perché per molti la somma dei 400 o dei 500 deve stare all'interno della vacanza. Sì. Ecco, diciamoci anche questo. C'è questa anche funzione questo. Sociale, ecco, in alcuni casi è portata all'esasperazione, lo comprendo, sì. Ma passiamo le ore alcune volte proprio per spiegare, per cercare di fare i conti. Sì, praticamente siete il CAF sul voucher vacanza, siete il CAF dei vostri clienti. Va anche a vantaggio vostro. Grazie Patrizia Rinaldi, sei presidente dell'Associazione degli Albergatori di Rimini. In bocca al lupo per la stagione, speriamo che sia meglio di quanto non ci aspettassimo. Diciamo in bocca al lupo all'economia, perché il turismo... Davvero, traffico, ci ritroviamo tra un attimo. Grazie Rinaldis. Mattino. Scrive un ascoltatore che lavora in un albergo in Abruzzo, dice: sabato non è assolutamente macchinoso, sabato un cliente l'ha attivato davanti a noi perché non sapeva che avevamo aderito, anzi un'ascoltatrice, Luce, avevamo aderito, non l'aveva fatto prima e l'ha attivato molto rapidamente, e speriamo che vada così per tutti quanti, per carità. Guardi Luce, quando le cose funzionano siamo più contenti. Altre conseguenze di diverso tipo di Covid: lo scarso utilizzo dei mezzi pubblici, la gente per lungo tempo ha avuto paura, inizia a spostarsi in maniera diversa, ci sono delle regole abbastanza strette e quindi spostarsi sui mezzi pubblici diventa più complicato, ed è scattata la mania del monopattino, soprattutto a Milano, soprattutto a Milano. Un po' dappertutto, ma soprattutto a Milano, con conseguenze che qualcuno inizia a dire che sono un po' preoccupanti. 3 giorni fa una donna di 31 anni è rimasta ferita in modo grave quando ha battuto la testa violentemente sull'asfalto dopo essersi scontrata con un autocarro. Altri 2 incidenti non gravi, sempre in città tra sabato e domenica. Poi un uomo di 36 anni è caduto e ha battuto violentemente la testa, non grave per fortuna. La Procura di Milano si appresta a chiudere un'inchiesta per lesioni colpose a carico del responsabile legale di una società di sharing per un incidente nel quale rimase ferita un anno fa un'anziana travolta da un monopattino. Parliamo di Milano, in realtà, per parlare anche più in generale di questi strani attrezzi che già da un po' di tempo non sappiamo come gestire. Caro Marco Granelli, assessore alla mobilità e ai lavori pubblici del Comune di Milano, buongiorno. Perché già prima del lockdown eravamo là in ballo con tutta la discussione su come regolamentare questi monopattini, come gestire la cosa, come gestire lo sharing. E poi è arrivato il lockdown e ci siamo ritrovati con questa sorta di invasione. Che bisogna fare secondo lei? Allora, per noi è importante continuare a usare il mezzo pubblico. Siamo più o meno a metà degli utenti che prima del Covid usavano il trasporto pubblico, uno su due, dobbiamo andare avanti tenendo bene puliti i mezzi, aiutando i cittadini a muoversi, perché altrimenti se noi scegliamo di usare tutti l'auto ci ingolfiamo nel traffico e inquiniamo la nostra aria. Il monopattino è uno strumento utile a muoversi perché permette di muoversi agilmente nelle città, ma bisogna ricordarsi che quando si è in strada non si sta giocando, ma si è appunto in una situazione dove tutti dobbiamo stare attenti e seguire le regole. La regola dice che il monopattino è come la bicicletta, sì, va nelle strade a 50 all'ora, deve andare in strada e non sul marciapiede, e in strada si seguono le regole, si segue il semaforo, non si va contromano, bisogna stare a destra e bisogna stare attentissimi. Questo sì, è quello che noi diciamo, e se tutti usiamo la testa, anche riusciamo a diminuire gli incidenti. Purtroppo, a proposito di testa, Granelli, sì, testa, Granelli, pensa che sia necessario l'obbligo del casco per questi attrezzi? Allora, la legge dice che l'obbligo del casco è necessario solo per i minorenni, e quindi noi ci atteniamo a quella che sì, è la ma al di là dell'attenervi, poi, la sua opinione le chiedevo. Certo. Noi crediamo che bisogna lavorare di più sulla velocità, per quello che noi abbiamo messo ad esempio ai mezzi in sharing l'obbligo di mettere il limitatore fisico della velocità, cioè fare in modo che quel mezzo vada piano, perché se non si va veloce si riesce a migliorare. Ecco, poi su questo è chiaro che chi ha più competenza deve intervenire, però noi crediamo lavorare molto sul limitare la velocità, e per questo sui mezzi in sharing li abbiamo obbligati a avere il limitatore della velocità. Sì. Poi ci scrive anche giustamente un ascoltatore: sembra che gli incidenti siano causati esclusivamente dai monopattini, state demonizzando un mezzo utilissimo, probabilmente un utilizzatore di monopattino, ma dall'altra parte ha ragione, è semplicemente un mezzo nuovo che gira per le nostre città, Granelli, e quindi tendiamo a vedere una pericolosità maggiore solo perché è un mezzo nuovo, ci prestiamo più attenzione, anche la nostra attenzione, quella di noi giornalisti, quella mediatica, è più forte, no? Certo, questo è vero, perché guardi, in una città purtroppo gli incidenti con feriti ogni giorno sono decine, noi abbiamo decine di pattuglie della polizia locale ogni giorno impegnate solo per gli incidenti sulle auto con i feriti. Ecco, però è giusto chiedere alla gente, quindi anche voi fate bene a segnalare, a parlare di queste cose, perché i cittadini devono sapere che quando si è in strada bisogna stare attenti, e su un mezzo nuovo ci vuole un pizzico d'attenzione in più. Quindi noi crediamo che vada utilizzato e che ci aiuti. Noi nell'asse principale della nostra città, come Corso Buenos Aires, noi oggi abbiamo normalmente il 40-50% dei veicoli che utilizzano quella strada sono bici e monopattini oggi, sì, e questo è importante, sì, perché vuol dire ridurre il traffico delle auto, e quindi i cittadini sono circa 7.000 che ogni giorno in bici e monopattino fanno quella strada, però bisogna farlo con grande attenzione, seguendo le regole, non andando sui marciapiedi, perché i marciapiedi sono, sì, fatti per i pedoni. Noi stiamo facendo, sì, piste ciclabili. Oh. E questo vale anche, diciamolo anche ai ciclisti, Diciamolo anche ai ciclisti, che certo, i marciapiedi sono fatti per le persone che vanno a piedi, ossia i pedoni. No, si chiamano marciapiedi a tutti gli effetti. E diciamo esatto. E questo è importante, perché tutti noi siamo un po' così, no? Ogni tanto ci dimentichiamo le regole, mentre dobbiamo farlo indipendentemente che ci sia il vigile che ci guarda, perché per convivere bene. Quindi utilizzare di più le due ruote, che siano bici o monopattino, aiuta molto il traffico delle città, perché noi in città stiamo tornando ai livelli pre-Covid come, sì, traffico, e ormai siamo dalle nostre telecamere, vediamo che le auto che entrano in città sono ormai il 90% di quelle che entravano prima del Covid. E sì, vuol dire 700-800 mila auto ogni giorno che entrano in città. È chiaro che questo poi porta traffico, porta inquinamento sotto le nostre case, porta più rischio di incidenti. Ecco, se usiamo di più il mezzo pubblico, la bici, il monopattino, sì, anche lo scooter elettrico, sì, noi abbiamo fatto un bando di contributi, sì, per lo ricevuto la lettera, è andato molto bene. Ecco, queste cose aiutano traffico e ambiente. Grazie a Marco Granelli, assessore alla mobilità e ai lavori pubblici del Comune di Milano. Vedo e gli ascoltatori si dividono tantissimo sul tema dei monopattini, sul tema dei ciclisti, tanto sui marciapiedi quanto contromano, che è un'altra di quelle cose, il ciclista che arriva contromano. Grande tema di discussione. Prima di chiudere, e grazie dunque a Granelli, sentiamo un passaggio, Carmelo Lauricella, della Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, che ieri ha parlato di una formazione che riparte dal digitale, quindi è tornata sul tema dei supplenti e degli insegnanti, anche se poi c'è una coda di tutta la questione dei banchi. Sentiamo Azzolina. Modernizzare il sistema vuol dire farlo funzionare meglio e più velocemente. Vuol dire dare prima alle scuole il personale di cui hanno bisogno, favorendo un avvio più sereno dell'anno scolastico. Vuol dire garantire i diritti delle ragazze e dei ragazzi. E dal digitale riparte anche la formazione dei docenti e di tutto il personale. E così la ministra sulla formazione. La realtà è che c'è una coda su tutta la vicenda del bando per i banchi monoposto. E qual è questa coda? Che il bando prevede l'acquisto di 3,7 milioni di banchi. Ieri l'industria del settore italiana ha fatto sapere che corrispondono a 5 anni di produzione e quindi è tecnicamente impossibile farli nel giro di 2 settimane. C'è solo un'azienda al mondo che potrebbe farlo, un fornitore del sud-est asiatico che, dicono le aziende del settore, questo è quello che dicono le aziende del settore, non rispetta le normative di sicurezza che sarebbero necessarie. E quindi chissà che succederà, chissà l'affascinante storia dei banchi. GR24, ci ritroviamo tra poco con la rassegna stampa. Sì, c'è anche questa storia, ma ce ne sono molte altre.